derivata da una copia che esiste a Milano e secondo voi chi ce l'ha? Berlusconi. Nella stanza del Bunga Bunga c'è la Gioconda senza vestiti e da questa parte arriva bene. Poi io mi sono chiesto tra me e me, ma si diceva è uomo e donna, che cosa c'è sotto? Cioè se io la prendo la spoglio, cosa c'è sotto la Gioconda? Ecco, numero 111, l'origine du monde. Il capolavoro di Courbet è la parte inferiore della Gioconda, vanno proprio integrati. E questa provocazione di Courbet è come la lettura della carnalità di quello che nel suo corpo fisico è la Gioconda. E ancora un artista d'avanguardia di grande prestigio, che è Gino De Dominicis, numero 114, ne produce un'essenza, la fa diventare quasi un'opera astratta, in cui c'è il segno della bocca e gli occhi che si perdono, un'opera di una personalità molto sensibile, è una più divertente, dimenticata, di cui abbiamo aperto peraltro un piccolo museo già vedo, si chiama Alessandri e gioca sul piano aneddotico sul fatto che lei è vera, quindi esce dal quadro 112 e sta su un tavolino a danzare per una serie di donne, perché in realtà è un trans e sta in questo pub con questa idea di vederne la intimità. L'altra invece, 112, è il club di Scalpelli, Pig's Pub, vedete con tutti i porcellini, e lei invece è donna. Così, vedendo quante variazioni può dare, ed essendo di ognuno l'autoritratto, io ho detto, e io, 116, e ho fatto. Quindi ognuno di voi è la Gioconda è come Madame Bovary. E a questo punto siamo arrivati alla fine, vedendo le poche cose che ha fatto, qui siamo nel 1508, gli mancano 10 anni di vita, lui continua a dipingere, poi porta in Francia una versione maschile della Gioconda 117 che sta sempre al Louvre, che è San Giovanni Battista, e fonda il suo quadro più bello, realizza a Parigi per i fatti suoi, l'opera più compiuta, quasi raffaellesca, anzi già raffaellesca negli anni in cui Raffaello è già pienamente attivo nelle stanze vaticane, che è la 118, che è questa meravigliosa, un capolavoro, altro che quelle finte, ma guardate com'è il paesaggio sul fondo, la dolcezza del volto della Madonna che prende il bambino, stando in braccio a sua madre, le rocce qua sotto. Qui veramente lui stranamente si è impegnato, e lui piombare in una depressione gravissima che lo porta, 126, a fare il suo ultimo autoritratto, a metà strada fra Omero e Borges, con una malinconia e il senso del fallimento. Vedete la bocca piegata verso il basso, dice ho sbagliato tutto, non ho fatto niente di buono, insomma è un dipinto molto depresso di un uomo deluso. Però ci serve per chiudere con un'opera vera, importante, un capolavoro vero di pittura, forse la più bella pittura del Rinascimento, che è 125, e cioè la scuola di Atene. Qui si vede un artista che dipinge a buon fresco, che fa una organizzazione spaziale formidabile, guardate la parte in basso, e quell'architettura che potrebbe essere la San Pietro di Bramante è in realtà un'idea di chiesa come tempio della conoscenza. E allora vedete che non ci sono santi, ma ci sono Socrate, Michelangelo, qui c'è Raffaello, gli astronomi, poi al centro ovviamente Aristotele e Platone, e nelle nicchie addirittura Apollo e Minerva, quindi è il mondo antico che si spinge verso il mondo cristiano in un'apoteosi dell'Occidente, è il teorema della civiltà occidentale, quindi un dipinto assoluto, forse il più bello affresco del mondo. E mentre Leonardo si è depresso in quel disegno, Raffaello, che lo amava diversamente da Michelangelo, decide di dare a Platone il volto di Leonardo, e quindi voi vedete il numero 127, che questa figura è esattamente il numero 128, cioè il disegno malinconico diventa l'immagine di un'icona, è la prima celebrazione, noi celebriamo il 500esimo, ma il primo che lo celebra quando ancora è vivo è Raffaello. E in questo capolavoro, rivediamolo tutti insieme, sembra darci un monito, che non si può immaginare nessun governo, nessuna conoscenza senza il sapere, cioè che quello che abbiamo davanti è un tempio della conoscenza, e senza la conoscenza non si fa da nessuna parte, con l'ignoranza non si governa, è un monito anche per i nostri giorni. Thank you. Sono state, credo, due ore magnifiche, no? All'inizio non fosse vero. Tenerci sul tema della scristianizzazione dell'attuale papato, però che poi ha preso un'altra strada. Io credo che abbiamo chiamato questo insieme di incontri che vogliamo, che stiamo organizzando e che oggi hanno toccato il suo punto più alto in questa prima parte di attività di questo auditorium, connessioni, e francamente Vittorio ce ne ha offerte centinaia. Io credo che vada ringraziato davvero di cuore, una cosa che ha fatto in parte anche in amicizia verso di noi, e ringrazio davvero tanto lui perché ci ha dato molte emozioni, e ringrazio tutti voi anche per avere fatto la resistenza, hanno fatto. Sono stati bravi. Vecchio mio. Leonardo, chi l'ha visto? È proprio lui. È lui quello che appare nella scuola di Atene di Raffaello come il grande filosofo Platone. È lui l'uomo barbuto. Era probabilmente un giovane bello e alternativo quello che andò a lavorare nello studio del Verrocchio. In una Firenze dove gli intellettuali umanisti dominavano gli artisti e indicavano loro ciò che dovevano dipingere, a tal punto che questi poveretti accumulavano ogni tipo di immagine, a guardare con occhio franco questo dipinto del Verrocchio al quale collabora il giovane Leonardo, quando Leonardo probabilmente ha fra i 20 e i 22 anni, e me ne viene in mente una cosa incredibile. A Firenze il manierismo è sempre esistito. I volti e i paesaggi hanno qualcosa di simbolicamente morbido e leonardesco. Ma l'albero palma di gomma e la veste di stralusso che serve da perizoma al Cristo sono tutt'altra cosa. Perizoma di lusso anche per Luca Signorelli, in una delle crocefissioni che sono a mio parere più incredibili e moderne per quell'epoca. Già, la questione della prospettiva. Brunelleschi la dimostra per la prima volta all'inizio del secolo con questo gioco. Lui si mette all'interno del Duomo e guarda di fuori il Battistero. Fa vedere al suo pubblico un dipinto di questo genere che il pubblico guarda attraverso un foro, così. Guarda e vede il Battistero. Dopodiché viene invitato a prendere uno specchio che pone dinanzi al dipinto e rivede nello specchio il dipinto stesso, quindi la stessa forma del Battistero appena visto. Ha dimostrato con questo esperimento che si può far capire e vedere l'architettura nel dipinto proprio come nella realtà, seguendo alcune linee precise che ne determinano il disegno. Sono le linee della prospettiva che si vedono partendo dal suo punto di vista centrale, che verrà chiamato poi il punto di fuga. Leon Battista Alberti trasforma l'esperimento in teoria. È il primo a parlare con precisione del punto come minima dimensione possibile, quasi come l'atomo per la filosofia greca, e della linea come conseguenza del punto. Leonardo andrà a collezionare i libri che parlano dell'argomento. Anzi, per un uomo della sua epoca, e sostanzialmente così poco incline a leggere il latino, era un grande raccoglitore di libri, ne aveva 150. Questo è il clima della bottega del Verrocchio nella quale cresce Leonardo. Leonardo è un tipo bizzarro e particolare, figlio di un grande ragioniere dello Stato, allora della Repubblica, poco incline allo studio, risultati pessimi in latino, nessuna inclinazione per la matematica, costretto o invitato dal padre a far cosa che lui poteva fare, cioè lavorare con le mani. In quella bottega del Verrocchio, Leonardo stava in realtà remando contro da parecchio tempo. Remando contro una pittura carica di intellettualismi neoplatonici. Remando contro il gioco di smontare la prospettiva ormai dominata da tutti per farne qualcosa d'altro. Infatti la prospettiva di questo dipinto si percepisce solo se lo si guarda in basso a destra. E rispetto agli accumuli di personaggi dei suoi colleghi, cui tutto avviene al minimo delle presenze, l'angelo e la vergine. Certo che la semplificazione consente la genesi di un'inattesa poesia. Coesistevano in qualche modo e si intrecciavano queste due correnti di pensiero, è giusto, sono queste quelle fondamentali. L'idealismo neoplatonico, il Marsilio Ficino, il Pico della Mirandola. E poi c'era la componente sperimentalista e quindi aristotelica, quelli di chi studiavano i movimenti del corpo, il flusso del sangue che scuoiavano i cadaveri. E beh, è chiaro che Leonardo appartiene a questa area culturale di sperimentatori, di notomisti, come si chiamavano nella Firenze di allora. Gente che vuole capire come funziona la macchina umana. È quella più grande macchina che è l'universo. Questo è il problema che assillava questo genere di intellettuali. Le due cose poi stanno insieme, si intrecciano, si mescolano. È la bellezza di questa epoca. 10 anni dopo, con l'Adorazione delle Immagini del 1482, il percorso anarchico è quasi compiuto. Tutte le regole ordinate dai suoi amici, lui le butta in aria e inventa un dipinto che contiene di tutto. Sembra già un taccuino dei suoi appunti. Magi adoranti che sembrano vecchiacci terribili. Una vergine che sembra già nelle rocce. Cavalli folli in giro per un paesaggio inatteso. E architetture catastrofiste da grande cinema moderno. Guarda la regina che dona la sua fede, quella di prendere. Infatti, la prospettiva di questo dipinto si percepisce solo se lo si guarda in basso a destra. E rispetto agli accumuli di personaggi dei suoi colleghi, qui tutto avviene al minimo delle presenze, l'angelo e la vergine. Certo che la semplificazione consente la genesi di un'inattesa poesia. Coesistevano in qualche modo e si intrecciavano queste due correnti di pensiero, è giusto, sono queste quelle fondamentali. L'idealismo neoplatonico, il Marsilio Ficino, il Pico della Mirandola. E poi c'era la componente sperimentalista e quindi aristotelica, quelli di chi studiavano i movimenti del corpo, il flusso del sangue che scuoiavano i cadaveri. E beh, è chiaro che Leonardo appartiene a questa area culturale di sperimentatori, di notomisti, come si chiamavano nella Firenze di allora. Gente che vuole capire come funziona la macchina umana. È quella più grande macchina che è l'universo. Questo è il problema che assillava questo genere di intellettuali. Le due cose poi stanno insieme, si intrecciano, si mescolano. È la bellezza di questa epoca. 10 anni dopo, con l'Adorazione delle Immagini del 1482, il percorso anarchico è quasi compiuto. Tutte le regole ordinate dai suoi amici, lui le butta in aria e inventa un dipinto che contiene di tutto. Sembra già un taccuino dei suoi appunti. Magi adoranti che sembrano vecchiacci terribili. Una vergine che sembra già nelle rocce. Cavalli folli in giro per un paesaggio inatteso e architetture catastrofiste da grande cinema moderno. Non c'è più nulla da fare, li tocca andare via. I colleghi ubbidienti sono andati a Roma a lavorare per Sisto IV. Lui verrà impacchettato e spedito da Lorenzo al suo grande amico Lodovico il Moro. Leonardo non l'hanno chiamato nell'impresa della Sistina nel 1481 perché lui, lo sapevano tutti chi era un teorico, uno sperimentatore, voleva inventare tecniche nuove. Quelle erano ditte di professionisti che lavoravano a cottimo un tanto al metro e il Papa voleva che il lavoro fosse fatto al meglio nel tempo più breve. I vari Botticelli, Perugino, Signorelli, questo erano. Figurati se si tiravano dietro uno come Leonardo da Vinci. Questa è la ragione vera per cui nella squadra della Sistina lui non ce l'hanno voluto e probabilmente non ci sarebbe neanche andato, non era quello il suo mestiere. Leonardo viene spedito a Milano come musico, inventore di feste e di stramberie. eppure come creatore di curiose macchine belliche. Ma si sta già sviluppando un suo proprio carattere. 1. La questione della prospettiva va ridiscussa alla radice. Quando guardo un quadro perfettamente equilibrato secondo le regole della prospettiva, succede un fatto clamoroso. Non mi sembra reale. Alla questione lineare se ne aggiungono sicuramente delle altre. Fra qui e laggiù, l'oggetto di laggiù lo vedo più confuso di quello che vedo davanti. L'aria gioca un suo ruolo. La figura umana gioca in un ambito di morbidezze che l'architettura non richiede. Questo fenomeno visivo lo chiama prospettiva di notizia, perché diminuisce la notizia delle figure e termini che hanno essi corpi in varie distanze. Nei suoi appunti, quello dei codici, appaiono quindi varie ipotesi diverse di prospettive, quella di notizia, quella di spedizione e quella di colore. Ma soprattutto si pone una questione di fondo, dove ancora una volta la lezione materiale sperimentale va a contraddire la teoria, e cioè la prospettiva non può finire in un punto unico, poiché l'occhio non è un punto, ma è una grande lente. Tanti punti e tanti razzi andranno a finire in questa lente e si sviluppano secondo la sua forma. Poscia, di occhi ne abbiamo ben due e un oggetto posto davanti a me lo posso vedere per di qua e per di là. Fine dell'astrazione teorica e inizio di una lettura materiale. Punto 2. Non mi sento un meccanico. Certo, se i pittori fossino atti a lodare con lo scrivere l'opere loro come voi, io dubito non giacerebbe in simil cognome. Ma perché mai il futuro ingegnere non vuole essere un meccanico? Per un motivo serio. La cultura di quegli anni prevede, da un lato, le arti liberali. Le arti liberali sono quelle che preparano allo studio della legge e alla vita civile dell'intelletto. Si fondano sul trivio, cioè lo studio della grammatica, della retorica e della dialettica, l'articolazione del parlare, quindi, e sul quadrivio, dove si studia l'aritmetica e la geometria, i quali due campi di studio aprono la porta dell'astronomia e della musica. Questo è il mondo delle arti liberali, che verrà aperto successivamente anche alla medicina e all'architettura. Tutta roba che si fa senza usare le mani. Le robe manuali sono le arti meccaniche, che vanno dal far lana fino al far pittura, scultura o oreficeria. Questa distinzione liberale-meccanico sta alla radice di ciò che si dice a Botticelli per farlo dipingere ed è ciò che non tollera Leonardo, perché dice lui, con le mani si figura quel che si trova nella fantasia. Terzo punto, la pittura prima di tutto. Eccolo. Il pittore è padrone di tutte le cose che possono cadere in pensiero all'uomo. Perciò che, se egli ha desiderio di vedere bellezze che lo innamorino, egli è signore di generarle. E se vuol vedere cose mostruose che spaventino, o che siano buffonesche e risibili, o veramente compassionevoli, egli ne è signore e creatore. Anche il pittore e uomo vittoriano, anzi forse lo è più degli altri, lui è la vera copula mondi. A Firenze quindi lascia incompiuto il suo lavoro, oltre all'adorazione dei magi, anche il San Gerolamo. Geniale nell'impostazione da cinema, dove il santo è un duro vecchiaccio di campagna. Il leone è davvero circo. E il paesaggio concepito secondo i suoi nuovi parametri. Il tutto in una elaborazione così lunga e pensata da non potersi mai terminare. Poteva immaginare che il cassier dicesse no alle amate che han mostrato il donato pagherò. E forse la banca l'ha fatto per non mandarmi in rovina. Questa è una cosa carina, ma lei doveva pagare. National Gallery a Londra, la sala con i due capolavori di Leonardo, la Vergine delle Rocce. Che che guaio passato da quando le donne così affezionate non hanno incassato le somme donate. Una riflessione fuori orario a museo chiuso su questa grande pala, che è la seconda versione del primo lavoro che fa appena arrivato a Milano per i francescani dell'Immacolata, che poi è l'Immacolata Concezione, donna appena sancita da Sisto IV. La prima versione dovrebbe essere dipinta con indicazione precisa dei contenuti, perché il tema teologico è all'ordine del giorno e i francescani ne sono i principali sostenitori. Lui non riesce ad adeguarsi e disubbidisce. La seconda è più corretta, infatti il bambino Gesù gioca un ruolo centrale e l'angelo non commette più l'errore di indicare come protagonista il giovane Giovan Battista. Sono fenomenali e ultra fiamminghi i fiori in primo piano, un po' come se lui in quegli anni fosse al telefono regolare con Dürer, che fa lo stesso lavoro nel mondo tedesco. L'atmosfera che esiste tra la mano della Madonna e la faccia dell'angelo è totalmente misteriosa e inattesa. Ma curiosamente la cosa che mi colpisce più di ogni altra è il fondo. Il fondo si sfuma secondo il principio di prospettiva rinnovata aerea. Questa sorta di chiusura che si evolve su due buchi diversi dove si guarda fuori. Questo è un dipinto che dimostra che la prospettiva non ha una linea di fuga pulita. Sono i due punti dove l'occhio va, quello di destra e quello di sinistra. Lo conosco quello lì, è l'autore di una curiosa atmosfera sospesa. Un paesaggio totalmente inatteso, come si legge. Il passaggio dalla pala al cartone spiega parecchio. Il cartone non cartone in realtà, perché questo cartone non è mai stato utilizzato per essere trasportato su un altro supporto. Racconta la storia ovviamente della famigliola, della Madonna di Sant'Anna e dei bambini di Gesù e del Giovanni. Si è evoluto su se stesso, è un disegno che prende forma lentamente. Ma parte da alcuni dettagli molto bizzarri, qui si capisce che il disegno è un gesto puramente vigoroso, che non vuole affatto definire il tutto, ma vuole definire solo il peso e il volume. Tutto è ovviamente solo accennato perché volume. Il piede è altrettanto. Ma lì dove si formano le facce e i volti, si capisce che il disegno di Leonardo nasce dalla materia, dal progetto della materia, e non banalmente dal segno. Questo grande disegno è degli anni maturi del Cinquecento. La questione tecnica per lui è totalmente risolta. Ma torniamo a Milano negli anni dei primi grandi successi. Quando dipinge per esempio il ritratto della Cecilia Galerani, la ragazza del principale Lodovico il Moro, e quelli ovviamente della sua fatica più nota. Il Cenacolo, attualmente rinchiuso in una sorta di acquario che ne garantirà la conservazione eterna, almeno quella della parte rimasta e restaurata. Richiede questo Cenacolo un pensiero molto particolare, perché non esiste in sé, non ci sarebbe un pezzo senza l'altro pezzo. Li voglio guardare insieme. Ho deciso di mettere due telecamere che si sparano l'una contro l'altra in modo da formare un terzetto particolarmente significativo. perché si parla sempre del cenacolo, ma non si tiene conto di un dato fondamentale. Il cenacolo è uno spazio dove due grandi dipinti si guardano l'uno in faccia all'altro e dove chi li consumava quotidianamente non era affatto un visitatore, ma era un serio domenicano seduto come me in mezzo ai suoi confratelli quando mangiava. Ve lo giuro, sono sincero, non è vero, ve lo giuro, a fe, io sono il grande refettorio è oggi vuoto e venera un fantastico ricordo. Ma ci spiega una cosa di fondo, quando Leonardo va a dipingere la grande parete di fondo, quella che è nota al mondo intero, siamo attorno al 1495. Proprio nel 1495 l'opera di fronte è appena stata ultimata, il lavoro di Montorfano. Hanno una cosa in comune questi due grandi, sono tutti e due la negazione dei dettami estetici cinquecenteschi legati alla passione per la prospettiva. Il Montorfano è talmente pieno di roba che la prospettiva si perde. Leonardo di fronte darà un esempio di come si può immaginare un mondo completamente diverso, non con migliaia di persone, ma con gruppi ordinati di tre apostoli alla volta. E con un ordine prospettico talmente cerebrale da andare ben oltre il rigore di Brunelleschi, perché il punto di fuga non corrisponde all'occhio dello spettatore, ma è concettuale con tal forza da stare più in alto nella testa di Cristo. È lui che guarda me, non sono io a guardare lui. Infatti solo il disegno mi convince, non il mio istinto mentre guardo. Il fondo è sfumato, i personaggi più precisi, la natura morta precisissima quanto la tovaglia, perché in primo piano. Crocifissione del Montorfano è un riassunto quasi germanico o comunque nordico degli ultimi temi del Medioevo, arricchiti però da una serie di personaggi che sono già moderni. Padrone quella somma di denaro in piazzetta Indipendenza 27 piano terzo chieda pure senza scherzi del quelli barone di Leonardo Santa Fe, sono ma si aspetta massimo vesto di una veste storica improbabile ma comunque con la volontà di rappresentare il passato. La parte centrale del Montorfano è una sorta di Gerusalemme mitica e ignota che sembra in realtà il castello di Milano. Il cenacolo invece corrisponde con precisione alle descrizioni di Varrone e ai testi sacri. Leonardo sa che il cenacolo è al primo piano della casa romana, luogo che si prende in affitto perché la famiglia, di solito quella dei proprietari, mangia nel triclinio che ha perduto. Ha già imparato tra l'altro Leonardo dall'amico Bramante a dare una prospettiva a Milano. Lo straordinario Trompe-l'œil di San Sacchero ne è un bel esempio, dove la prospettiva vuole dare l'illusione di portare lo sguardo oltre l'architettura vera e propria. Montorfano è così convinto della sua qualità che firma clamorosamente l'opera sotto la croce. Leonardo è talmente dubbioso del rapporto con il pubblico che non firma l'opera. Oppure Leonardo è troppo famoso, ma comunque ha il diritto di aggiungere a Montorfano probabilmente quattro figure. Il duca, il suo figlio, la duchessa e la figlia. Ne ha aggiunte lui, ne ha aggiunte suo aiutante, non lo si sa. Sicuramente sono state aggiunte con la stessa tecnica che è evaporata. Perché il cenacolo sperimentale, come tre quarti dei lavori di Leonardo, è stato condannato anche lui all'evaporazione. Recuperato per il conto della cuffia, grazie a un restauro durato quasi 30 anni. There he is, the Louvre, Ben, il Leopardo Orchestra. Montorfano, infine, vuole rappresentare Leonardo non vuole affatto più essere fiorentino, non vuole rappresentare nessuna idea astratta. Il suo è un dipinto convinto della realtà e altri misteri lì non ci sono. Perché gli elementi presenti sono stati definiti seriamente con il capitolo dei domenicani che qui mangiava. Un trombone, cartolina! Eppure Leonardo, in barba alle stupide allusioni del codice da Vinci, è proprio sottoposto finalmente al rigore di quello dei domenicani, qui ha reagito, usando una pittura che sembra il fiocco simpatico, forse sapendo che lentamente l'opera sarebbe scomparsa. E lui avrebbe lasciato nella nostra mente solo la sensazione di un disegno perfetto, una beffa, motivo vero e ultimo del sorriso super sfumato della Gioconda, trasformato da Marcel Duchamp in un'altra beffa ancora, a testimonianza della sua capacità di Leonardo di inventare il mito e della nostra a caderci e crederci. Sono andato a trovarli e va bene, c'è stata una bella sensazione di armonia. La scorsa domenica è arrivato, o meglio due domeniche fa, abbiamo fatto questa piacevole frivolezza in compagnia di qualche amico direttamente qui al circolo Lo Deserto di Campi Salentino. È stata una cosa piuttosto simpatica, nel senso che abbiamo bevuto, abbiamo mangiato, siamo stati bene. L'unica cosa, e poi è successa una cosa un po' sgradevole. Intanto leggiamo qualche messaggio che è arrivato circa 12 minuti fa. Ci scrive Guido di Milano e ci scrive un messaggio piuttosto simpatico. Nel frattempo informo gli amici da casa che se ci seguono e noi siamo qua, chi volesse passare circolo Lo Deserto direzione Campi Salentina. Per il resto potete anche scrivere potete anche scrivere a Giampaolo, che è questo nostro amico da Milano, che ha detto: oddio, c'ho il fumo buono, che devo fare con questo fumo? Ho detto: guarda bello, se me lo consenti stasera ti faccio ma proprio sgravare un po', va bene? Allora scrivete a Giampaolo, ci vediamo tra poco con il messaggio di Guido, a tra poco. Dietro la vetrina dei santini di turno, che la gente ammira come bizzarre curiosità, i fogli del codice Arundel vengono esposti a turno. La fortuna però ci assiste, perché in questo codice appare un disegno curioso sulla capacità di inventare le chiavi che trasformeranno due secoli dopo gli strumenti a fiato in moderni. E poi un altro dato molto interessante, lo studio degli attriti. Qual è il peso necessario per far superare un attrito in piano, per muovere un oggetto? Prima scoperta sulla mentalità di Leonardo. Se per gli altri la teoria genera ipotesi di realtà, per lui la realtà genera ipotesi di teoria e di critica alla teoria. Lui pensa alla teoria di Archimede, datemi una leva e solleverò il mondo, e ci fa immediatamente una riflessione: ma quanto pesa il braccio della leva? Per lui il peso della leva influenza per un quarto circa il rapporto di forza. Buon senso popolare che ritrova Firenze nella mostra degli Uffizi. Il trattato dei pesi di Biagio Pelacani, che lui studia e critica perché vi riscontra delle anomalie. Leonardo non è uno scienziato, però è tale come sperimentatore che si pone problemi dinanzi alle leggi dagli altri stabilite. Crede alla sperimentazione, è un empirico ante litteram. È un individualista totale, a tal punto che quando si accorge di essere mancino, invece di scrivere da sinistra a destra, decide di scrivere da destra a sinistra. Simmetrico, perché i gesti sono gli stessi. Se la O mi viene così, la O mi verrà così. La sua non è affatto una scelta esoterica, è una scelta pratica come in tutto il suo lavoro. Difatti i quadri venduti, quelli da farsi pagare, sono firmati regolarmente in modo che il cliente lo capisca. Anche le carte topografiche sono scritte in modo che gli altri le possano leggere. I suoi appunti no, perché sono totalmente personali. Sono appunti per non dimenticare, sono appunti per elaborare, sono appunti per ricordare le gag che farà in pubblico e sono appunti dai quali appare la sua... matematica, dove ama più la retorica dei numeri, della precisione del pensiero. Lui è un artista e ogni foglio è pronto ad essere cominciato. Nell'esempio di codice piccolo, quello della tribunziana, posta del Castello Sforzesco di Milano. Forse si deve pure all'inizio, ma che comunque mantiene la traccia nel suo piccolo affresco. Sotto il dominio della razza germanica. Il filosofo marxista Lukács presentava il pensiero di Nietzsche come l'espressione più netta dell'irrazionalismo che preparava la barbarie nazista. Pur riconoscendo la genialità di Nietzsche, critica della vita comunista, anche Lukács conferma la tesi che vede in Nietzsche il diverso precursore di Dio. Nel periodo immediatamente precedente alla Seconda Guerra Mondiale, e negli anni che ne seguono la Prima Guerra, i critici e gli storici rivedono il problema Nietzsche con diverso rinnovato impegno storico e filosofico. Soprattutto Martin Heidegger vede in Nietzsche il punto culminante e insieme la vittima della metafisica occidentale. La perdita progressiva del senso dell'essere non può... Thank you.

bilancio automatico della scolarità. Il differenziale e la passione per il granate lo porta a delle velocità tecnologiche straordinariamente efficaci, come questa carrucola che consente proprio di tirare su un peso con il movimento in maniera avanti che è indietro del manubrio. Movimento da regolare. Tra l'altro attraverso un disegno tecnico che sembra un disegno tecnico della nostra cellula, quello che oggi si chiama un disegno esploso. Ma il tempo intervisto, il tempo artistico, non è guidato dalla necessità. È bizzarro, imprevedibile. Quel passato sorge da un altro passato. E poi iniziamo un percorso attraverso la sua curiosissima psiche. La falsa vivenza. Espressionista all'inverosimile, quando immagina il movimento a trivulce, non può essere come se fosse lui un pittore del XIX. È il filo della necessità da lui ripudiato. Espressionista in tripudi di robe e amici di luna, amici fraterni proprio. Ebbene, e purtroppo siamo sempre di meno, nel senso che la salarietà, come dice Michael, scarseggia sempre più. O meglio, al sale abbiamo sostituito il vino, al vino abbiamo sostituito l'amicizia non c'è più, è finito tutto. O meglio, siamo raschiando. La barca, ho trovato mare mosso e allora ho passato le vele, sono andato a motore. Andato a motore tutta un'altra storia, perché alla fine riesci ad andare come vuoi, puoi fare i giri, puoi andare ad ascoltare le città, vedere tutto lo diciamo, e è comunque una prospettiva diversa rispetto alla vita che porti nelle scarpe. Quando sei nelle scarpe, le calze, pantaloni, quando sei nella giacca, la cintura, la freccia, sono molto più semplice, quella vita che è tediosa e pesata alla fine, perché c'è caso la lavatrice, la lavoratore, tutte le esperienze che mi hanno portato a capire quello che veramente nella vita è importante. Quando dormi puoi fare quello che vuoi, quando sei sveglio invece devi trovare quello che ti piace, quello che ti piace fare. Sì. qualcosa che non fosse qualcosa, tipo qualcosa. Qualcosa che non fosse una finestra, qualcosa che non fosse un tavolino, un tavolo, una sedia, una luce in una canzone. Che sono giù di una ragazza. Brandini, ostri, fagioli, crosby, purè. Gatto al vapore. Gravattato con un uovo in camicia. Cosa mi dice il giorno? Intervista se ne tiene. Oh, che sì. Mi ha preguntato. Come che fa la vita è così? Incredibile. Di nuovo questo lì, non sai quello che fa, capito? Ah, ma non stiamo parlando per il mio vita, non ho mai consultato. Non è andato, Trump, Trump, Trump, l'avete un Trump? Questo è il caso di questo signore. E la giostra continua. Io ho una domanda, volevo fare una domanda, posso fare una domanda? Falla! Posso fare? Falla! Però spero falla! Sì! Grazie! Non è il potere dell'azione la massima potenza, perché chi agisce è costretto da un certo esterno a sé, e il potere consiste nel costringere mediante azioni le azioni di altri individui. Nella sfera dell'azione il circolo della potenza non si chiude mai, perché chi agisce è contrapposto all'infinito a ciò cui si rivolge. Ma chi conosce non ha più nulla fuori di sé. Al filosofo, pertanto, l'azione è superflua. E soltanto alla vita come conoscenza spetta l'attributo della massima potenza. È con questa proposta che deve misurarsi chi è interessato a lui. Vi ricordate la sua critica della morte? Una visione ottimistica della vita si basa sulla contestazione dell'individuo. Se l'individuo è inessenziale e illusorio, altrettanto lo sarà il suo perire, la morte in generale. Dolore, gioia, morte esprimono l'immediato, appartengono alla vita. Il suo impegno maggiore è stato quello filologico di andare a ritrovare attraverso lo studio dei termini il significato e il valore dei termini medesimi nel tempo in cui essi vennero, riscontrando che ogni epoca ha un suo linguaggio, ha una sua storia, la quale però dall'altro lato, secondo il Colli, comincia dal momento in cui viene ad esserci una decadenza del primo momento della sapienza greca, la quale sapienza è una sapienza, come egli stesso scrive, che è una follia. La sapienza autentica non può non essere che follia, proprio perché è divina e non è umana. Nel momento in cui diventa umana, c'è storia, allora a quel punto è chiaro che può diventare o logos o discorso, e nel discorso avviene la decadenza. Di qui ora l'impegno di Colli, ed è qui che io posso non essere più d'accordo con Colli, ma proprio questo non essere d'accordo con Colli mi porta ad apprezzare il Colli stesso, e proprio nel dissenso sta la validità di un uomo. Un libro che non mi fa pensare non è un libro. Un libro che mi mette in disaccordo è un libro serio, perché appunto mi provoca modi di pensare, e quindi di essere diverso da quello che ero prima. Mi ricordo una cosa, una frase sua che mi ha fatto molta impressione, perché io ho ritrovato un pensiero espresso da un filosofo americano di vento, cioè la filosofia moderna non è che un commento di Platone, bene, ma Colli l'aveva preceduto, osservando appunto che la filosofia non fa che sviluppare il pensiero di Platone. E il pensiero di Platone era poi per Colli un punto d'arrivo del processo formativo della filosofia. La sua impostazione, l'opera sulla sapienza greca, è originalissima. Cioè, se voi pensiamo, è il primo che si è così. Non vorrei dire liberante perché potrebbe sembrare indifferente verso un nuovo di grandi studenti, come Nietzsche, come tutti quelli che si sono occupati della filosofia presocratica. Ma devo dire che poi è stato il primo che ha dato, se capisco, la importanza, diciamo, del pensiero religioso greco proprio in funzione di una comprensione di un'intelligenza del pensiero filosofico. Lui aveva trovato una risposta per il recupero del nazionale, l'aveva trovata come uomo di sapere, come filosofo. Lui aveva proposto l'unificazione a posto della scissione. Non aveva detto, da una parte, i dodati, i folli, gli esaltati, dall'altra parte, noi, gli uomini della ragione. Aveva proposto l'unificazione in ogni individuo, la conclusione tra Dioniso e Apollo, e la differenza tra loro due è poca cosa, in quanto l'uno è nell'altro. Cito, leggo qui, nella Dorice, questa frase: questo è il cammino dell'artista, da una rappresentazione nascente a un'altra, secondo la traccia del tempo invertito, in direzione dell'immediato. È una cosa di molto impressionante, perché praticamente il lavoro di laboratorio da anni segue questo cammino ritroso in direzione di tecniche estatiche originarie, in particolare di tecniche sciamaniche. La previsione di un linguaggio sciamanico, si posso chiamarlo così, per un puro teatro, e quindi di un teatro di tecniche sciamaniche. La sapienza del perché del nome faccio cominciare il discorso sulla sapienza. Il nome del vero la vita appare come sapienza, portando vita a mente. Eccolo. In Grecia un dio nasce da una pianta esaltante come vita, un pezzo di vita che si vuole fermare. E questo è già di tempo. Ma di lui nasce da una pianta sottile la vita. Come si può guardare assieme tutta la vita? Questa è la tratanza del mondo. Se si vive, si è dentro una certa vita, ma vuole essere dentro tutta la vita insieme. Ecco questo che si cammina, con il dio in le sue vite. In tali vita tanti di uomini, il dio della contraddizione, di tutto il contraddizione. Manifestandosi in parole si esprime in termini contraddittori. Dioniso è l'impossibile. Lassù si dimostra vero con la sua presenza. Dioniso è vita e morte. Gioia, dolore, estasi e spanto, benevolenza e fedeltà. Cacciatore e presa, loro e meglio, massimo e potenza. Desiderio di fatto, luogo e violenza. Ma tutto ciò non è giusto. Nell'interiorità di un cacciatore che si slancia spietato e di una preda che sangue e muore. Tutto ciò di situazione, senza più una morte, e continua a e alla fine, questa contraddizione è qualcosa di ancora più divergente, più insanabile di quella che i greci hanno sperimentato in questo tempo. Nel contemplare Dioniso l'uomo non riesce più a staccarsi da se stesso. Dioniso è un dio che muore. Nel crearlo l'uomo è stato trascinato a esprimere se stesso. E qualcosa ancora, al di là di sé. Dioniso non è un uomo, è un animale assieme a un dio, così manifestando i punti terminali delle posizioni che l'uomo porta in sé. Qui appunto sta l'origine oscura della sapienza. La trapotanza del conoscere, che si manifesta in questa abilità di stare tutta la vita, con i suoi risultati, l'estremismo, le simultaneità delle posizioni alludono alla totalità, l'esperienza indicibile e la totalità. Dioniso è quindi uno slancio insondabile dello sconfinato elemento acqueo e il flusso della vita che precipita in cascata da una roccia su un'altra roccia, con la grezza del volo e lo strazio della caduta, e l'inesauribile attraverso il frammentarsi, vive in ciascuna delle operazioni del corpo tenue dell'acqua contro le adulte più. Dimostrarsi del prezzo della sapienza si accompagna anche a ferite sentite. Il nome della memoria, rispetto alla sfera della parola, la sapienza si manifesta come sfida del tutto. Ciò che Apollo suggerisce non è conferenza di un'unica mano, un tenebroso intreccio di parole, che si allinea alla sapienza, ma l'uomo che si va avanti all'interno deve dispiegare il prodigio a costo di vita. In tal modo Apollo esercita la sua sapienza e irrisce l'uomo in mente di sua sapienza. Mentre la esercita attraverso la conseguente comunicazione alla vita, che te quiero aún, mucho más que ayer. Dime tú qué puedo hacer. erano detti terribili dagli antichi, forse per venerazione, forse perché nessuno era capace di scoprire a quali fini mirassero le loro parole. Ma oggi i filosofi sono agnelli. Anche il filosofo è un comediante. Guardate i suoi concetti, quando lo spettacolo è finito, la pergamena è srotolata per intero. Ecco il trattinaio per i panni nervi afflosciati e le marionette del suo gioco. Una raccolta di studio. E forse un pathos filosofico, la trazione verso l'enigma, dipende di interpretare il mondo come un enigma mosso da un istinto serio, violento, quasi che un presentimento che in fondo alle cose vi sia un filo conduttore, scoperto un piano, se possibile tracciare il disegno per uscire dalla labirinto della vita e insieme da un istinto già perduto, viene, avido di imperisco, dalla prezza di chi toglie con meritata lentezza i veri, dall'inizio. E cos'è la profondità del pensiero? Il nostro è un secolo di energia filosofica, e in questa labirità c'è una lusinga, un pericoloso stimolo alla stranezza. La propria danza sta in campo e poco, falta un po' di tempo. Facciamo tutto l'apparenza finale, uno sguardo dell'apparenza inclina la prima. Il mondo è una festa della conoscenza e oggi forse più che mai, nel periodo antropleo in cui viviamo, è un altro spettacolo della manifestazione visibile della vita celebrata. Contro il buon gusto, come siccome dice, definisce il teatro. La panaglia meglio al cinema, cosa la buglia, dove la tempo, se li buglia. Ma c'è tempo a sedersi e non si capisce perché facendo un quadrato. Se lasciassero al buio anche quello, sarebbe una specie, ma noi occidentali non siamo abituati alla... C'è poco Oriente. L'India facile non basta appunto a spegnere tutto. Come dovrebbe avvenire nei palcoscenici lirici, diciamo, melodrammatici. C'è sempre la regia, il servizio buono, tutte queste cose, non... Una musica di Rossini, per esempio, di un precipitato, di non eventi, di non fatti. Una musica di Verdi, dove il teatro è già contenuto nella musica. Non ha bisogno poi di ulteriori sviluppi dell'azione. Scontato proprio che attore derivi da potrebbe il suo estimo ad agire e non ad agire. Quindi questa tentaglia che sta facendo al palcoscenico ha alienato al teatro da ormai da... C'è un pubblico, no? Salvo gli abbonati, un'elite delle piccole masse, la piramide delle plebi, che vedono in un po' qua. In Cino non ne parliamo, insomma, è una celebrazione dei fratelli di Lumière, perché lo so dire, questo di netto perché è diventato. Se togli quel minimo di auto spavento, che è stato tutto il o un attimo di smarrimento, che ha detto i cani, il treno, le Lumière. E poi quella commemorazione è lui dalla salutante. E quella perpetua. Una celebrazione, una serie di contrasti, organizzata per un turismo in massa da Giuffiero. È una serie di Las Vegas povera, per un colore. Non più tanto colorato. Ma che lo dice? Saranno un gabaglione. Non ha mai avuto una scrittura, la scrittura è senza dubbio la scrittura, è uno, ogni autore deve essere un fuori per questo, deve essere autore straniero, detto giustamente nella propria lingua, dove più vivo a me, perché io non dopo mai in teatro, anche all'estero, anche se mi progetti per i Pirenei o per i Russi oppure per i Laponi, ho sempre messo da parte la traduzione simultanea, quello per media. Forse l'unica non storia del film è quella di Gilles Deleuze, che è il Markdown, il volume poi il secondo. Dove forse un po' anche proprio di CD, che sia sempre di Antonioni, con il dettore del corpo. Cerchiamo un corpo, non abbiamo un corpo. Deleuze poi di solito Antonioni, è su Carmelo Bene, dice così. Sono due foglie forse, ma sempre sul corpo, appunto. qui personaggi del mondo di un'area di un'altra cultura, che avrei personaggi erano un po' di un'altra cultura, sono tanti, eccetera. Non sono mai accolto, nemmeno un grande, non sono accolto mai per avere questa... Mi ridico quello che c'è in questa... Non lo fate, insomma. Se mai un maestro di Romina, un maestro... Se mi stanno conoscendo i soli più comici, a mio avviso, intendendo per comico non il buffo, perché Schopenhauer, appunto, compiace il distinguo, il buffo e il comico, il merito. I buffi sono quelli televisivi, sono eccetera. Il comico è qualcosa di molto affilato, una lama. Aspetti, improvviso, un veleno, un ghiaccio caldo, un caldo già freddo, non vorrei ripetere ingondolismi, ma è fondamentale che questo sia. E per me l'autore è sciso dall'opera. Cioè, sì, è capolavori, non si può produrre capolavori. Già il mio atteggiamento nei confronti dell'immagine, proprio, l'immagine è più volgare comunque. Non so proprio la rappresentazione. E ogni rappresentazione è rappresentazione di Stato. Ma soprattutto l'arte che compone anche l'arte, Raffaello, Velasquez. Sì, forse vogliamo Raffaello, Velasquez, Bernini, per lei. Sotto proprio questa nuova portata. Perché hanno ricevuto l'arte. È una storia della committenza dell'arte. Ora il cinema quindi non è la 77ª arte, il cinema non è niente. Il cinema è un festival, il cinema sono dei festival dell'ibrido totale. Un teatro totale, se va come per salire, no? Insieme, per mancare. Geografico. È una commissione, il cinema che è sempre stato tributario della letteratura, della musica, che partito che suonava, oggi non è nel cinema, no? Non è da film. Non è mai stato filmante, sì. Non ho mai visto il cinema. Invece per avere un film per andare in un tipo di gioia, allora le materiali filmate, ma è veramente immediato. Eppure è scritto. Oppure che ti passi della commedia d'antesca, però nelle proprie anzate, dove è un grande perigno, di proprie frecce, allenati, di proprie lettere. Vuole uno scritto con un filo un po' colorato. Poi c'è, ad un detto in quinto piatto. Il doppiaggio è un enigma, un enigma doppione. Poi fino a diventare questa specie piccola mastopatentella del sesso, del sesso, poi illuminato molto accuratamente. Tutto quel libro, per esempio, non è altro di sciaguratissimo. Al compimento del sesso. Non è una grande roba da distinguere del popolo. Ahimè, è un cineasta. Cioè, non si può fare della letteratura con la letteratura, non si può fare della musica con la musica, non si può fare del cinema con il cinema, così come non si può vivere con la vita. Bisogna fare altro. Dov'è questa altrove, il film? Dov'è la differenza? C'è qualcosa che non è là. Ma è organizzata, è stata messa una curata, è messa le saltorie, segnate. È sempre le premiate viste. È un cinema d'opera, e tu ne hai altri tipo. Ma non cretino nel senso nobile, è un cretino furbo, è un cretino che lo fa il furbo, che appena alfabetizzato, no? Godard, Picayer, l'intellettualismo che mi incapace di approfondire il problema, la distinzione di scritto e orale, no? Almeno per l'immagine, è un'immagine, c'è un culo lassù, va bene, sarà internazionalino e non c'è bisogno di doppiarlo. Dove anche il culo? Certo, sono capace di doppiare anche il culo. Ma lo stanno parlando, volante. Il cinema è volgare, i suoi codici sono molto precisi, non c'è un cinema italiano, un cinema americano. Quello americano negli ultimi vent'anni ha avuto gli effetti cosiddetti speciali, certo. Il suo banalissimo. Quel museo italiano dal realismo con la presenza di gente e lo spallore che è sempre stato il doppiaggio, la musica, il paesaggio, sono tutte tante cose. È nato morto, quindi poi sarà distinto il cinema emergente, sarebbe un superto, qui come un superto, no? Ecco, poi verrà per un vista decadente, di evidenza decadente. Vicina al paziente della stravaganza. Cioè, tutto dentro l'altro è legato a una lingua. Prima del Burundi, per il cinema del Burundi, non lo so. Che poi non è necessario il Burundi, perché, come diceva l'americano, non è necessario fare con l'America. ma l'arte non deve avere che fare con la vita. Se qualche corregione è più grave, vorrebbe anche muovere uno di tonaccia che fa. In realtà è concepibile, la vita non pensa. Perché nella nostra abitudine la teniamo comprensibile. Almeno poggiamo i nostri gridi in qualche cosa. Io non ho mai visto un equilibrato. La prima cosa che si dice, è mirato che si è tirato bene. È ben girato, non dire che è girato. Perché è detto, quindi, magari. Poi cercava proprio gli odori, magari anche il letale, gli odori, cercava le cose, c'era gli altri iniziatori, no? Poi ha fatto il coreografo, ha fatto grandezza nella costituzione della lingua francese, nella smarginatura della Pagna. Un cinema che smarri, non l'ho mai visto. C'è qualcosa di Taylor, di qualcuno, ma è... Lì quando io ero ragazzo, i filmmakers erano questi film di Andy Warhol proprio al ristorante, lì anche c'erano un più, anche un minuto in più, ecco. Ma di solito è una cosa di coppie, dove si mette qualche disco ogni tanto, perché va bene, un po' di volta il panchi, non va mai. E queste coppie sì, discutono, tacciano, si avvolgono un po' di le palle, vanno verso pane, ma noi si fa pettina, devi guardare dall'altra parte, mi viene, è una cosa che una decisione di una battaglia, proprio, di una battaglia, di una battaglia, no? Dove passa la battaglia? L'avessi messa. Mi sa lo padre di Pasolini invece ha delle cose che non appartengono al cinema. Ha tutto quel suo dannunzianesimo inconfessabile, che con una lettura, diciamo, anche se un po' di didascalica, sai, lucida, lo sa, Saviana, perché gli apparteneva. Era un violento. Ma quando poi scrive poesie, la poesia se non sono poesie, è sempre inferiore a Pascoli, ecco. Come subito pensa la mette in Pascoli, alla Alessandro, alle Mirice, al Solon. Ma fanciullino, tutte queste cose. Perché lì quando scriveva somigliava alla sua esile cucina. Così. Ma anche questa esile cucina non è mai stato Farinelli, per intenderci. Fare ha avuto il melodramma, ha avuto il massimo. Nato tra il Giotto e Tassavigli, gente così simile, per incrementare, no? Per dotare la musica di maggior psicologia addirittura, per essere detto. Ecco invece si è tradito e per fortuna. E senza fare il teatro totale, allora non c'era la televisione, c'era il cinema, non c'era nulla, salvo due o tre tipi di teatro totale, abbiamo avuto il momento appunto di sicuro solfeggio di melancolia. Nella testa un campanello, c'è questa conclusione privata dell'Italia nella Geri, ma non c'è bisogno di leggere standard, di grande cosa, di là del genere umano, certamente. La cinema non l'ho mai visto, mai sentito nella testa un campanello. Perché il cinema è destinato, si è attribuito a una funzione sociale. Quando si parla di sociale c'è sempre una fossa biologica in mare. Quello che lo chiamava l'umano ovviamente. Non è nemmeno una documentazione storica, il mio antistoricismo non è volto, se lo fosse. La dolce vita è qualcosa verificato molto squalidamente vent'anni prima che Fellini e Martinelli e Traiano la ricostruissero. Sono sempre delle ricostruzioni. Il film nasce come imbecille, tentativo di restauro. Non richiesto assolutamente, non si può restaurare la signorina Perista di Lozano, non si può restaurare non l'Udisse di Joyce, ci hanno anche provato, non si può trasferire però come transfer, ecco, Harry James, proprio perché lì la grandezza del film è poggiato sul non vedere, ecco la straordinaria potere della mia. Lo stesso per quanto riguarda un cinema di demolizione rimane, dal montaggio convulso, dal montaggio che della differenza, la ripetizione, la differenza. Certe poggiature, certe cose, fondamenti nel bianco e contrapposti hanno uno stracolore, talmente inaccettabile, ecco. Deve essere inaccettabile e incomprensibile, così come il grande teatro è accettabile se è incomprensibile. Deve essere dall'opera, deve essere dalla dialettica, deve essere dalla documentazione, deve essere dal film, appunto documento, del film inchiesta. Non esiste la fantasia, così però fa bene appunto la patologia. Quindi il cinema non ha mai saputo provare reperire un'autonomia. Già difficile, perché fermare un'immagine, magari per il tempo, io penso che abbia liquidato tutta la storia della committenza futura, nell'arte figurativa, già messo stessa, forse per il tempo, inteso. Sai con qualcun altro che prima ho citato. Nel cinema si traccia. Non ci sono opere sulla pellicola, sono scomparse le tre pellicole della Pellicolor, cioè il Jet, il Magenta, commerciali, perché precipitato già da 70 anni nell'attualismo. Nessuno fa dei conti davvero con questa pelle della pellicola, quindi davvero col corpo. Col corpo più maschile, sì, e quindi con lo smembramento del corpo, senza nostalgia quotidiane dell'origine, ma proprio nella questa felicità, quando la felicità non è sia felice, appunto, per questa grazia, è io canale, che proprio, per dello smembramento, non vedo niente, quel bene è un po' potentissimo, non, per carità. A voi perché poi? Intanto bisogna stare di qua e di là dalla macchina, o dalla cappa, o dalla camera, non che si voglia, e non da una parte sola. Così come il teatro di regia non ha fatto altro, infatti è puntitiro, ma non sono mai ocardio, se è puntitiro. Sono sempre consolatorie poi di che? Sono noiose. E quindi se il teatro è il plebiscito contro buon gusto, Luciano, appunto il cinema lo è tre volte. Il fallimento del teatro è levato al punto. Socialmente poi, non, essendo occupando solo, un surrogato sociale, con alibi, no? Spalleggiato, autospalleggiandosi proprio. Socialmente, è proprio dal sociale è stato abbandonato, le sale sono chiuse, sono diminuite, non c'è bisogno nemmeno di spegnere perché non facendono più. Così questi autori sono sempre dei cinema, sono sempre dei falliti, ma falliti nel senso deteriore, non nel senso minoritario, del minore, dell'esiano che attribuisce così a chi è assente, ma lo spendo anche livello su casca. È qualcosa che non ha a che fare con niente il cinema, è quello di raggruppare tutto. Per di più è piatto, è messo lì, hai voglia, non è un fatto di televisione più o meno messa a punto. Io non vado mai al cinema, non sono mai andato al cinema, non andare al cinema proprio. E l'ho fatto proprio per farla finita. No, stagionale di tutti nel 68, ecco, tumulava il 68, l'anno più stupido della storia dell'umano esperimento. Tumulava il cinema al tempo stesso. Insomma, io al cinema non ho mai visto niente. Salvo un partito. Piaceva il partito del separato, tutto così, si vede la sarta che sta appena ritirata, il giocatore che ha tolto l'ultimo lucro sul naso, appunto, l'altro ha messo appena la glicerina, queste latte le fanno sempre male. Non ha mai messo in discussione se stesso. Si può parlare sul ballo di Zambito. Non bisogna mai cercare di tamponare una crisi, quindi la crisi del teatro, la crisi del cinema, no. A frequentare un teatro della crisi e magari un cinema della crisi, ma così per farlo fuori. Non è giusto che ci siano delle operine che restano, niente di così interessante. Della falsa documentazione d'epoca, abbiamo detto, non vale nemmeno, ma nemmeno per questo. Non documenta un bel nulla. Il Novecento è stato un secolo molto interessante. Dai lati patologici, diciamo, proprio, ha avuto, ma in mezzo a tutta la nostra attenzione, ha avuto Gianni Lager, tutto che adesso, questa è patologia, Gianni Lager è male, ma ha avuto Goethe, ha avuto Kafka. Mi domando chi non ha avuto, se è stato fino a Rossini, fino a Francis Stefano, ha avuto Stravinsky, certo, non è Rossini, ma Stravinsky, portando Mario, in quel caso, proprio alla spensieratezza, alla grazia di Rossini, dov'è l'eredità? Non vedo grazia. Dov'è la bellezza di quella del bello, come Gerhard Schopenhauer, proprio della musica di Bellini? Io non vedo tutto ciò. Non vedo la lezione schopenhaueriana. Non la vedo nel teatro, non la vedo nella musica, d'oggi, non la vedo nel cinema. Ma stato nel cinema, di luce, dove di cosa. Non ha a che fare, non esistono i fatti. Per risolvere stesso, l'ho insegnato. Il fatto esiste per aver raccontato. Allora vive. Ma che sia accaduto già in una casa, la storia non esiste, una relazione sconnessa, infatti mai accaduti. E poi soprattutto vedete i dipartimenti in massa. Quindi manca di messa a fuoco. Non c'è niente da insegnare, è una noia, perché per poi ti... Ripeto, sono gente peggio della figura intellettuale quando è stato. Siamo scelti di ricordarsi cos'era la masturbazione infantile. No, quello non si ricorderà mai, perché un'altra cosa. Diceva che tutto sulla popola, si simulava anche quella, ecco la finzione, quello che trova al teatro. Già nella vita siamo stati alla presentanza e alla presentazione. Già bisogna togliere un po' di volontà. Poi, invece il teatro viene raddoppiato, nel cinema questo cinema viene elevato al giusto. Ma la rappresentazione obbedisce a dei codici precisi, prescritti. Non è solo lo Stato, per ogni rappresentazione, ripeto, è rappresentazione di Stato, ma lo stesso autore, soprattutto. Ecco perché chiama dei partiti, si trova il partito. Perché riteneva la musica, il partito musicale patronale. Quindi come nel teatro c'è un testo a monte, che viene poi, e quindi prescritto, poi viene tutto riferito, e quindi sempre la riferita, ecco, rifletto, ridetto, poi viene recensito, con ciò che pensione, che ormai è critico, sempre diceva l'ombra, dorme, sostina a dormire, ecco al bui, è un domicilio al bui, E quel cinema, questo effetto strano, strano inquilino, mi sembrerebbe proprio appunto un sorto fuori dalla sciaguratezza dell'Ips. Anche se diletta dentro. L'attualismo. Si è sempre ostinato, questo cinema ad abitare, vuol dire, e occupare un destino. Domicili altrui, cambiando una casa al giorno magari. Mancata ad altri. Il prodotto resterà solamente forse più grande, quindi analogia, ecco, il materiale per gli appassionati del film, che sono appassionati. Resterà Rina, ecco, resterà la Spale Barra o Annalo, resterà Cupolo. Io parlo di speculazione di interessi, ecco. I grandi saggi di pensamento già operato nel 1900, filosofico, ma che sono appena l'anno 900, faccio prendere il Plateau, faccio prendere tante cose, dice Cupolo, dice Lacan, Tedesco, Sossi, insomma, fino a Derrida. E c'è lo smontaggio del linguaggio, c'è passato tossido da tutti noi, pure ragazzi, stupidi e attempati, sono nati morti. Il significante non è significato. Io non ho mai visto un film per significanti, o invalida dei significanti. Io vedo dei significati, dei messaggi. Ha ignorato la pentola del magnetico, per esempio, dove già girando, già riprendendo, non qualcosa, ma detto là. Nel cinema non c'è mai stato, perché è dialettico, come se fosse una terza prosa. Non è la grazia del melodramma, per esempio, o la follia del melodramma. Il melodramma non ha assolutamente niente, ma non c'è mai il soggetto che si forma visivamente, forma visivamente, ma intendendo o scenente, letico, forma, un po' di a come tazzi. Ecco, dove l'oggetto che si compete con il soggetto, che è una sola cosa, e tornano umeno kantiano. Non si vede sempre la volontà e la presentazione, mai abbandono. Abbandono, io non ho mai visto l'abbandono. Non ho mai visto nemmeno a teatro, non l'ho mai sentito nella musica del Novecento. Anche se, in compreso i grandissimi storici, non dobbiamo un primo presento, solamente forse a Bellini, a Rubini, a Pergolesi, a Cimarosa, ma soprattutto nel solfeggio, nello solfeggio, nel disossesso, dal testino, della sintassi o della pratica, è liberarsi dalla lingua, è liberarsi dal linguaggio, perché conta, farsi solo dei buchi neri, tutto della canta, vita portata a fondo. Come può dare cinema? Non può andare a peccato, grande letteratura, grande cose. Non può dare abbandono, non può dare un altro film. Come si può solfeggiare questo stato? Non rispondiamo al solfeggio con la produzione. Dovrebbe essere uno stato ozziano, cioè la forza, come si può. Uno stato dovrebbe essere talmente vizioso, si può fare che fatto, lo condisci in un linguaggio, un po'. Se ne ha più almeno 40-40 lì, come si può fare un linguaggio. In questa funzione, quella chiave, bisogna leggere, dice anche il testo di Hobbes, lo diciamo, politico, no? Ma lo fatto deve essere talmente vizioso da scoraggiare qualunque iniziativa criminale nei cittadini. Infatti, se poi lei ha tanto, non è deciso, non è deciso di non può fare niente. Ma non può fare, qualcuno si può provare, ma tanto non gli riesce, che lo stato sempre molto vizioso, più mostruoso, più criminale. Però fa delle braccia. C'è un'immagine rima. Moltiplicato 10 milioni d'anni di tempo, non so se è un'iperbole. Ci sarebbe meno dilettantismo anche nel questi stupri, in questi delitti, c'è molto dilettantismo, molto. Sembra la produzione, la vanità, per raccontarlo anche loro. Tutto ciò che i carabinieri risolvono ogni giorno, anche lasciandosi la vita, con paletta e secchiello, dico io o senza l'uno o l'altro, però lascia la pelle inutilmente. No. Perché siamo davanti proprio a questi crimini, a questi reati da crali. Anche da Centopoli che crali. Per dopo lavoro, ecco. Un lavoro non hanno mai fatto. Questa è la finanza italiana. E dopo la politica. Diciamo il 007. Ora non è che il pubblico confonda con Champagne, quando vedo il 007, sa benissimo di cui sta parlando. La famiglia di padre di famiglia. C'è stata qualcuna, una che ha mentito, un testimone, no? Che in questo caso della Trinca Bergamo è quella della Venire, perché aveva detto che il morto di Venice sarebbe stato al terzo dell'acqua, no? E quindi questo è un caso dell'acqua, finita. Ma infatti, è condannato un ingraziato, un facciato, un indizio, per una prova, invece, così, amichevolmente, naturalmente, tantissimo nella sua distanza, l'acqua potrebbe meritare, la proprio parete, per il gatto. Ma non lo merita se poi fare una notorietà, rischia di essere decente, come lo alberoni hanno fatto in psicologia. La tecnologia porta al tempo, non è la gassiosa, non è questo. c'è molto di appetito. Quindi il primo nemico del film è l'autore. Io credo che sia un solo italiano, o certo non abbia preso in mano una che ne preso una volta, l'autore con te. Quindi voglio andare a casa a fare un festival di chi veramente non sia mai stato a titola e non abbia mai tirato un film. Anche il Super 8. Lì vale bene un festival. E come siamo tutti cechi? Per non vedenti. Io ho anche detto poi questo libro per persone cieche. Ma se siano delle persone, siano state delle persone estetiche, l'abbiano già messa l'estetica e con l'etica, che dovranno inquinare ciecamente, senza una persona luminosa per loro, per i contesti. Della nostalgia delle cose, come ce lo dicono fatta una donna, che non ebbero mai il cominciamento. L'atto non è l'azione, agere. Agere vuol dire interpretare, chiedere. Per cui la Vergine Maria è avvocata. Ecco, poi sono diventati tutti avvocati. Scusate il tribunale. È stato vulgarizzato, è un abuso del funzionario. Due nomi, dell'avvocato, ecco. Comunque che l'attore deriva da atto retorico, non deriva dallo spatellare, da andare e venire. Sennò davvero si può dire per andare a venire a Puccino, anche la bella vita, fino alla regione. A confronto, a Puccino è il primo da mettere con il melodramma bello e finito. E questo all'asse è successo, quando io avevo tanto successo nel mondo, però sempre in un cinema, non solo italiano, ma le leggi francese, è composta da milioni. Ecco, ora questi milioni sono diventati tirannia delle peli, ecco. Il cinema resta sempre nell'azione filmata. Quasi una storia, una narrazione storica dell'azione. Ma la storia è sempre stata una non storia dell'atto. Cioè, l'atto non è mai l'azione. L'atto è l'oblio che bisogna, che ci travolge, travolge il loro intaccio, poi travolge tutti i tirannicidi, per esempio quando fondano una lama, è un tiranno. Lì non possono più pensare all'azione concordata, all'ideologia, all'etica, alla deontologia, alla morale. Non possono, devono agire. Nell'agire essi si inabiscono. Non sono più. Dopo poi spunta non più l'azione, ma il condominio, che mi sopravvive, dovrebbe acquistare, sarroga l'azione, grazie. Ma non ho mai visto qualcosa di immediato, non potrebbe essere una cosa immediata, perché devi girarla prima. E già questo fatto, a un attore di scena può cadere qualunque, anche un incidente. Tu fa un inciampo va in terra, a cinema rifanno la scena. Stop, questa non è buona, facciamone un'altra, ti dice. E fanno tanto. Perché quando tutti quelli che lo girano, le storie, loro la storia. Ma anche quello più logico, no. Sembra che non facciano un mestiere nella vita. Sono tutti dei miliardari poveri, portati, che sono stati realistici, che non meriteranno, sono davvero tutti disoccupati. Non ho niente da fare, insomma, rispetto al vicino, fare queste cose. Ma poi quando vanno a lavorare questo? Io mi intendo al costo di lavoro, quello che è giustamente cristiano. Dov'è la loro catena di montaggio? Non parlo del lavoro io, che è dato solo per me. Che magari ha anche tanto, è stato servante, la musica è una cosa quando si supera la musica nella musicalità e allora è una forza energetica, il cinema ancora nella coscienza, nell'ideologia, soprattutto nell'individuo, nella coscienza individuale, e soltanto sui principi di individuazione, per trovare il grande prezzo. Non accederà mai, non può accedere, perché è una mediazione, cioè, all'incoscienza, non può accedere all'incomprensibile. Questi sono attimi di grazia, che forse un millennio di grande teatro, uscendo e continuando dalla rappresentazione, può dare, ma da quell'inizio, come credo, lo so benissimo. Ci deve essere qualcosa di indeterminabile, che scavalca l'artefice, l'opera. Allora l'artefice è l'unico lavoro, e l'opera non dovrebbe avere tracce, non dovrebbe avere lasciti, di conseguenza, è minata sempre dall'espressione, no? Dalla televisione, dalla corretta, dalla manica, dal campo. Ma in questo caso urbi e torbi, ma orbi proprio nel senso là. Universo. Non ho mai visto un film che mi abbia fatto vedere la vita. Mi ha fatto vedere questa o quella cosa. Sempre con corpi e appartenenti a tutti. A pensieri tutto illevole, oppure dipende dall'epoca, un gessato, ecco. Ma che non hanno un lavoro mai, non hanno niente da fare. Perché loro dovevano fare quel film, basta. Via col vento, quale via col vento? Là non si muove una cosa. Non c'è assolutamente vento. Sono quello degli effetti speciali, si vede. E si sente benissimo. quando scrive qualcosa un po' diverso, ecco, perché il diverso è omologato. Qualunque stato, qualunque democratico, non qui sempre al diverso. Non lo può più fatto. No, no. Cerca di quella risorsa funzionale. Come sei? Per lo stato mondiale. Questo non sapete. Questo è un vero mondiale. Ma è un vero mondiale. Quello che spetta di onesto è una persona di migliaia. Inconsciamente, proprio freudianamente, sanno che l'ignoto del collettivo è di massa, ma è anche loro. Proprio anche quando inquadrano delle catastrofi, guarda, non si fidano della coscienza del teleutente. Guardate, guardate che catastrofe, guardate che schifo, guardate quanto sangue. E dunque è l'orale che deforma i fatti, che disinforma, ed è necessario di informare. Però loro lo concordano, e cos'è questo? Sfiducia nell'immagine. Degli speaker, dei telegiornali. Cioè, non ci sarebbe bisogno di commentare. Si vede, mi serve. Guardate, ti accettano, ti sono non muore, non muore. Scendere per convertirci. Questa fiducia è sintomatica sul discorso cinema. Non si fidano delle immagini, nemmeno giornalisti. La festa della mamma, il compleanno di non è nella sensazione, come Beton è nella sensazione. Non è sicura, non ha niente di vinto. Ma qui c'è anche grande realtà di vinto. Non c'è un posto. Non si fidano. Non si fidano. Non si fidano. Non si c'è l'idea però non è importante però se riesco c'è la sua parte ma non si vede rendere non è cosa di sangue ma non è nemmeno la grazia del processo di comparecenza insomma lei non fa il problema perché non si metterà un problema per voi comunitario per il mondo per il mondo per il mondo non è così non ne cosa perché i criteri che anche il maniero era fatto prima cosa ma non va più perché già il logo lo prendi perché inappropriatamente è una tanto meglio perché fino non è un telecomando ho visto che Stefano a Natale a me ha visto in un mock belle come se ne è caduto palazzo niente di più hai avuto paura? Sì un po' cosa sai di questo palazzo? Ha distrutto la parola, ha distrutto la distruzione della parola. Aveva già dato segni di cedimento che stava per cadere. No, soltanto una pietra e subito è caduto un palazzo. Perché qua siamo rovinati. Quando si rompe una pellicola, si rompe al paese, chicca, no? Ma tu devi tenere la corretta. Per tanto stavano vedendo. Tu mi hai caduto più fatto, lui è caduto più fatto. Sì, perché è un conto che non è stato proprio niente. Perché nulla ancora è l'aspetto vero. Parlo di un mondo classico, ma anche un po' dei morti, perché se non si sente proprio morto, un morto vivente, un morto che piace, ecco. Questa si farà uno, giovanissimo. Ma maestro è sempre una domanda, o si muore giovane, dice no, perché parte. Come sta? Sì, è rimasto basso, anche sulla iniziativa su quello che è un po' di stare in stato di stare in stato di stare in stato di stare Buona estate! possiamo iniziare questa citazione dalla Repubblica di Platone, quello terzo. Quando qualcuno di questi fantomini che sono così abili ad imitare qualunque cosa venisse da noi e ci proponesse di far mostra di sé e della sua poesia, noi cadremmo in ginocchio e l'adoreremmo come un essere santo per noi. Dovremmo però anche informarlo che nel nostro stato di esseri come lui non è permesso di esistere. Le leggi non lo consentono. E così, dopo aver voluto finirla, rincoronato con una ghirlanda di lana, lo dovremmo pubblicare in un'altra città, perché intendiamo impiegare per esempio della nostra anima più aspri e severi poeti e cantori di storie, che imiteranno lo stile dei virtuosi soltanto e seguiranno quei modelli che prescrivemmo da principio quando cominciammo l'educazione dei nostri soldati. Tu avresti posto in questo stato o dove staresti? Questa è la domanda. Allora io vorrei dire solamente due chiacchiere, ma solamente due, per essere veloci. Io non mi ritengo assolutamente un attore. Ho fatto nella mia vita tante di quelle ricerche, tante di quelle sciocchezze, a volte anche abbastanza impegnate, che troverei veramente militante parte di me, quasi di nessuno. Attore, cioè fino a se stesso, non si deve cacciare dalla Repubblica. Cioè io ho fatto, dovunque sono entrato, nelle cantine romane, dell'Anguardia, ho ricercato sulle immagini. Ho prodotto di persona pagando che quando 5 film insegnati alle storiette del cinema viaggiano o no, sono lì. Mi sono inoltrato al linguaggio televisivo, cercando di fare delle cose. E ancora mi dicono che ora l'unico linguaggio è un tipo di linguaggio antes, cioè magnetico, operato sui tavolini. Mi sono occupato di radiofonia con dei mezzi miserrimi di cui la Rai dispone. Ho portato un'idea di teatro, di quello cioè di far teatro attraverso quei mezzi, quegli strumenti stessi del far teatro. Questa è stata una rivoluzione che mi fanno. Mi sono occupato dello sprechesante, della musica, dei concerti, della voce della musica. Partendo dalla musica, quando abbiamo avuto un invito in mezzo di cinani, cioè, cinani, musicisti, quindi dal mouse, per fare le cose che voglio, mi sono portato il concerto. Da un qualche anno ho portato anche l'altra poesia al pubblico, ma se si pensi in quelle cose che io ho fatto, che ho detto, qualcuno ha scritto di vostre, ci vorrebbero 9 giorni, perché non si possono scappare, si esce 1.500, senza una ricerca di prodotti, si esce 9 giorni, se ci sta esserci, anche di vostre cose, mi fa tutta la vita, questo discorso lo avrei fatto anche per me la città, e poi già avrei accorsi dove sto facendo, ma scelgo, tu, un ecco, sono anni, l'attore lui che ha un mondo, e poi ce l'ha un mondo, ma dell'attore fino a se stesso, che senza avere un mondo, una cosa, una guerra, per esempio, una volta che non c'è un uomo che si attira, non è un altro, non è un altro, non è un altro, non è un altro, non è un altro, non è un altro, non è un altro, non è un altro, non è un altro, non è un altro, non è un altro, non è un altro, non è un altro, non è un altro, non è un altro, non è un altro, non è un altro, Vale. non essere mai d'accordo, sudarsi in viso ogni mattina in tutte le ore della giornata. Non come lo fanno gli attori stranieri, così fare parte abbiamo fatto una ragazza di faccia fuori, insomma, del più del meno, non è che ho ascoltato un disco, non so, delle documenti, non è questo, bisogna, io parlo sempre tanto, ecco, questo è il discorso, io parlo sempre una cosa, perché parli quando il giocatore ho scritto già prima di risolvere a fare, ma lui nota giustamente, non si può fare musica con la musica, letteratura con la letteratura, non si può essere poeti, cioè due poeti diversi, non si può fare pittura con la pittura, non si può vivere con la vita. Chiaramente Vittorio poi alla sua dichiarazione alla stampa, io ho seguito stamane, ma l'aveva però già detto in verità anche in sala, mercoledì discorso aveva segnalato, dice, ma comunque questo fatto che ogni attore più o meno inconsciamente mi pare che aveva detto lo compie, cerca almeno di compierlo, no, non deve cercare di compierlo, perché allora vale cioè quello di superarsi, di dribblarsi continuamente, va bene, siamo un termine calcistico, ovviamente nella ricordezza del soggetto c'è bambino e bambino, mi pare, allora devo dire ancora che c'è bambino e bambino, come dire c'è Raffaello e poi c'è... I salotti letterari francesi del Settecento si elaborò una teoria dell'attore a caldo, dell'attore a fritto, che Diderot trascrisse nel famoso Paris. Vieni che abbia ancora un senso parlare oggi in questi termini, il diritto ovviamente la puoi dire a fonega le distanze tra i due attori. La fonega è tutto, la fonega è insomma la voce non c'entra, la distanza è tutta. Si riferisce cioè al tuo prendere distanze dall'attore? Ma non dall'attore, dall'attore. Agli attori. Dall'attore innanzitutto. Quasi chiarito, penso, no? Basta essere attore, questo davvero mi perdono, sto scherzando, mi perdono. Ebbene, allora ringraziamo subito gli amici che ci hanno accompagnato anche questa sera. Come al solito, anche questa notte la vita va così, nel senso che abbiamo fatto le cose nostre, ci siamo divertiti, ma soprattutto salutiamo gli amici che ci seguono ancora da casa, nonostante oggi siamo stati un po' fraintesi, nel senso che non capita sempre, ma ogni tanto va così. Ringrazio il mio amico V, che sta facendo una regia bellissima questa sera, a mo' di luce e bandana, soprattutto Gallegoline e le voglie serene. E se no ci siamo stati interdetti al punto giusto da fare una capatina lì, al capo d'Otranto, Blumbe, Abastella, Di Timo e Ventuccia Selvatica, così la Palacia, agli occhi dell'Oriente più recondito, la prima alba d'Europa e d'Italia ce l'abbiamo solo noi. Bene, questo ce lo scrive Palaia Enrico, dalla provincia di Lecce. Ciao Enrico, grazie per averci seguito fin da subito. Abbiamo quasi concluso, ringrazio i nostri amici da casa, ci abbiamo proprio gli ultimi frame e ci siamo. Intanto una dedica a voi che ci seguite soprattutto dalla provincia di Roma. Bene, a tra poco. E disconoscere tutto il grandissimo lavoro d'artista. Ricorda che io per male ho fatto, che si può fischiare. Gordon Craig propone come rimedio alla torre di Cristo la sua immagine. Qual è la distanza, la distanza tra la tua ipotesi? Si tratta di solito un'ipotesi, quanto un allungo del corpo come marionetta, il soggetto controllato, poi non controllato, per lasciare andare, per recuperare. Bisogna essere, ecco, queste cose che non può essere, non si insegnano. Meglio che io le tengo quando credo. Anche perché gli ho lanciato, poi ecco, se lo studio di Catalina tu vedrà un libro di teatro, non c'è più. Sono 10 anni di tempo, va bene. Ma proprio per questo insisto, ma non è questa, ecco, non so. Prego, polemico, il matto, tanti cinieri fanno un effetto. Come fai? Mi adeguo, programma che vai, saltatore che trovi. E allora signori, buonasera! personaggio che l'immagine succede passa in terra. Vediamo al tema di oggi. Grandi studiosi come Goffman, che pensa alla vita sociale, come pure come rappresentazione, riallacciandosi ad una serie di c'è un'immagine che riconosce, cioè la distruzione dell'immagine mediante la sua moltiplicazione nella interiorità. C'è l'altro, completamente chiaro. Quindi se la vita debolezza stoica, ha rifiuto il fondo di una storia, ha una diffidenza del tempo per cui si invoca sempre un'eternità, un'altra parola. E con la folla provvida sventura in tra gli oppressi muore con pianta e nasce la scegna con l'iconissima, sempre dopo, anzi c'è sempre un al di là, andiamocene via di qua, andiamo via, è un andar via, un togliersi comunque di qua. Caro Schopenhauer andava ghiotto del cristianesimo e lo spiegò a tutti molto bene, il primo grande educatore. Di la connice, ma se ne prende neanche anche atto. Il cristianesimo è la fine della la cessazione del mondo come volontà e rappresentazione. Perciò io ho sempre detto che il santo è soltanto colui che mi interessi un po'. E l'artista, se si assuma anche l'etica, deve almeno non essere in odore, anche in lezzo, se vogliamo, di qualche volta di santità sulla scena. Deve avere voglia di essere di là, si deve sentire che non sta bene la salute. Vuoi aggiungere che c'è il lato? Non è felice, ma mi riallaccio a Freud, al Freud grande, che dopo aver letto Schopenhauer scrisse quel capolavoro, riscoppiando a ridare, le scorrette imbecilli, a un mondo sulla sua conferenza di Ginevra, al di là del principio di piacere. Non c'è questo, io sono lì, ci viene di là, risiede. Quando l'umanità si è inventata, il concetto di Dio si è inventata la giustificazione del principio di estensione, cioè per non andare al di là, principio di piacere né al di là. O semmai, andando al di là del principio di piacere, troviamo ancora la prestazione. Dicevo prima, la religione si è inventata da questo trucco, in fondo, rendere conto dello stare al mondo. Il dramma, io credo che consiste in questo, tra un soggetto che non accetta di rendere conto dello stare al mondo e non lo può accettare soltanto essendo solo amato, è un soggetto invece che diventa io, accetta il principio di prestazione. Ebbene, dopo un breve richiamo energizzante sinfonie egiziane, ci siamo di nuovo esattamente su dancom.it, la frenesia più cool del free end. Abbiamo festeggiato un nostro amico direttamente da proprio 200 metri più in là proprio. Continuiamo proseguendo con un saluto a tutti quanti, perché abbiamo chiuso, quindi potete anche slogare, come si suol dire, le cosiddette. Bene, allora, se buonasera e se buonanotte, se gli amici della notte anche stasera siamo qua, non siamo qua per noi, non siamo qua per voi, non siamo qua per tutti. Buonanotte a tutti. Bene, buonanotte a tutti allora, grazie. Al tempo stesso uno dei più monopoli che siano mai esistiti, proprio nel senso etimologico. E la bellezza della sua visione sta appunto in questa riflessione maniacale dello stesso. In questa affermazione mi sembra di raccogliere due elementi fondamentali. Il richiamo attraverso la dottrina alla monopoli e il richiamo attraverso l'aggettivo maniacale alla mania sacra che è alle origini. Senza il posto la voce, vado così, poco gioco, non ho più gioco, devo arrotondare. maestro in questo, quando io ero bambino lo seguivo perché prestando un uso al pubblico borghese in sala e anche non borghese. Adesso però, chiaramente con l'età, se l'impostazione è atletica, arrivati a una certa età, non si può più avere le frecce all'arco, bisogna non ripiegare sul microfono, che non è più piego, è tutta un'altra arte, un'altra arte. Non siete d'accordo che il microfono sia un'arte difficile? La calma io non l'ho mai persa l'altra volta, non ho capito il tuo intervento finale a seminare chiuso perché da mezz'ora mi sollecitava da vedere i bambini, c'era la squadra, i bambini voleva giocare sul telefone, le fanno così quando viene presente a teatro. Basta, c'è la parola scoppia, capito? E dopo devo togliermi era chiuso, poi mi porta l'effetto. L'idea della fascia è chiara, avanti come mania. Torniamo all'attore. E allora torniamo all'attore, no, abbiamo parlato in vano. Va tutto bene, io ho letto le tue dichiarazioni, non stanno, non so, non ti andava bene. Come maleducato. No. Evitiamo che la cosa venga un dialogo privato, bene che sia pubblico. Vorrei invitare Vittorio a parlare qui. No, Vittorio diceva che ti sta bene tutto, salvo quando io faccio il maleducato, ma nel tuo discorso io non volevo essere maleducato. Quando io parlo degli attori che usano le corone, testa, le cose, dei ruoli, il conflittuale, la qualità, ce l'avevo veramente, l'ho bocciata in me stesso. Fatalmente, se qualcuno poi in sala si sente canalizzato da questo, dice che questo riguarda proprio me, certamente. Se poi si sente, come poi lo è, al vertice, diciamo, degli attori di rappresentazione, che non è colpa mia, infatti non posso che tu sia a questo vertice, ma attenzione, quando, non per me, se nel vertice degli attori di rappresentazione, per me sia chiaro una volta per tutte, non esisti, perché non c'è un abisso tra noi due, è incolmabile, io sono un poeta. E comunque, per non visto così dividiamo questa cosa, per rifugi dal privato, io invece sono solo privato, privato nel senso di privato di tutto. Ecco, insisti, io visto che a volte tu le teorie, poi hai dichiarato a diversa stampa, sono teorie, cultura da Magliaro, cultura così, aveva affazionata, hai dato anche del Capotè a Maurizio Grande, e adotto, cercando adotto che era posto di Cosimo Sumieri, sta benissimo, e so che ti piacciono ancora, se in questo resti simpaticamente un impunito, ti piace ancora lo sport, la competizione, la cosa. E allora penso che quanto io dica, adesso sia solo vana predicazione, ma quello che abbia detto un mercoledì discorso, io allora ti invito davvero, anzi ti sfido, ecco, un termine sportivo, finalmente, io ti sfido, venire all'Argentina e leggeremo le ricordanze, io e te. Non ora. Per fare capire, vedremo se il pubblico in sala, convocato per caso, ad essere il pubblico in sala, convocato per caso, dalle reazioni di questo pubblico scopriremo se dove si commuove. Vieni e ti aspetto. Non solo questo, ma se questa è una sfida che ti rivolgo pubblicamente, in modo che vedano sulla prassi cos'è, che si verifichi fino a che punto io vaneggi e dica sia un fanfarone. Non sto facendo una sfida, ma siccome mi fate sto dito, trovo che allora, via, una cosa dentro fuori, una volta che tutto si finisca, ecco, e si giustizia. No, Vittorio, la mia sfida te la rinnovo. Io ti sfido a venire a leggere le ricordanze di Giacomo Leopardi. Non solo questo, ma se mi scappa tempo dalla Velti milanese, farò di tutto per riprendere Macbeth ancora una volta a Roma. Quando il discorso... Un momento, dove... chiedo scusa una cosa, volevo capire un po'. No, vuoi parlare? Il regolamento del gioco, no, una cosa, non esiste una cosa del pubblico. Quando uno dice non farò citazioni, è bravo. Ma è qui, no, è che a volte rompono un po', insomma, la comunicazione. Sai di casa pronta per un bailão. Bravi, uso del linguaggio, poi ogni tanto dice una cosa precisa, è difficile, poi non lascia. Così, ci credo che bisognerà affrontarla tu, noi facciamo lo stesso mestiere, ho visto cos'è, altro capito, noi facciamo lo stesso mestiere, un mestiere bellissimo, molto pagato, molto privilegiato, e anche la sua responsabilità, per esempio, l'unica cosa che mi preoccupava, è un po' lo sfiorare spesso le forme di egoismo, di misticismo, di tardato, che sono pericolose come se ne buttassero, per esempio, per noi, tante cose che mi preoccupano, nessuno è padre a un altro, a me, non parliamo di giovani, allora facciamo tardi, nessuno è padre, sì, vabbè, non ci buttiamo però a una sfida brutale, riserviamoci, o quella là, oppure comunque vuoi, insomma, non è questione poi di sfide, insomma, io l'altro giorno sono venuto molto faccioso, siccome tu hai usato, certo non hai detto i nomi, anche perché insomma, una certa cosa l'ho sempre vista in che disoccupanza, direi, però era talmente chiaro, hai investito tutta la categoria, sento insultare lei, ma di questo non voglio parlare, non serve a niente, sempre oltraggiato, non serve a niente, sì, ma non puoi dare degli epiteti, almeno lo puoi dare. Credo che non lo farei. Tu per me sei al sommo della categoria. Lascia perdere adesso. Ti sto dicendo, tu non mi puoi dare del volgare, del cialtrone, eccetera. Perché io te lo impedisco e dico delle cose che ti danno dispiacere. Perché non sei invulnerabile e allora, siccome io sono scomodo, molto più di te, io lo faccio. Basta. Il senso del discorso, per ritornare, ma molto rapidamente, è l'unica cosa un po' sensata che è stata detta l'altro giorno, cioè un po' attinente al tema, era questo procedimento dell'attentare a se stesso, del ferirsi con la parola, del darsi dei discorsi. Questo lo fa, certo lo fa, a volte benissimo, a volte meno bene. E come capita tu, non pretendere di avere l'esclusività di questo, il lavoro che tu fai, sia sulle fasce, sia che sia all'interno, sulla tecnica, sulla spiritualità, come non spiritualità, la negazione come l'affermazione, è implicito nel mestiere dell'attore. Sai qual è l'attore che mi ricorda di più te? E che faceva questa cosa in maniera ancora più appariscente? Era Memo Benassi, era, infatti guarda caso, era uno straordinario post-romantico. Era molto simile a te per inverso, per paradosso, perché laddove tu capisci tutto, tu sei intelligente, sei un buon perforatore, hai anche una buona cultura. Lui non ha mai letteralmente capito nulla. Se si può citare un attore che smarriva nel lasciare partire l'urgenza della parte nera, dell'irrazionale, perdendo di vista addirittura la struttura del linguaggio, era lui. D'altronde la Duse, che tu prima citavi, e la Duse che cosa faceva? Una delle cose più belle e più profonde che sono state dette sulla Duse è di un critico, mi pare, tedesco, di non ha importanza, che diceva la cosa bella della Duse era non genericamente, retoricamente, le pause, no? Quello che faceva nelle pause e quando parlava, cioè come un terminare, la punteggiatura, la grafia addirittura di quello che faceva. Tutto ciò ha a che fare con il linguaggio, con la parola, perché è nella parola che tu ritrovi e l'espressione e il suo contrario, cioè la dismenticanza, eccetera, eccetera. Quello che io l'altro giorno, un pochino per farti perdere i nervi, e un pochino perché è un discorso invece serio che sono disposto a fare quando avremo più tempo, che non voglio rubare troppo spazio qui. Ti ho detto che ti preferivo prima perché mi permetto di darti un consiglio dall'alto della mia vecchia età, anche se una gara sui 10.000 metri potrebbe essere altrettanto interessante, faremo un pieno come stasera, è il perdere piano piano un po' quel tanto di, non di misura, ma di dismisura, ma nel ludico e nel divertente. Non vorrei che tu veramente un giorno ti credessi quel Dio, che tu sai non esiste, io non ho sicurezze così chiare. Io proporrei adesso, intanto che io me ne andassi, e secondo, siccome io non ho avuto l'occasione di sentire il tuo recital, che sono sicuro è bellissimo, quindi stasera mi asterrò da te. E ti pregherei di finire, sicuramente voglio non fare questa serata, dicendo un brano, o di Leopardi, o ti pregherei di essere mia. No. Io non sono al tuo posto, né tu puoi essere il mio. La proposta io l'avevo fatta prima, chiudiamo questa cosa, scusate, l'avevo fatta prima, molto, molto più completa. Come tanto Vittorio Gasco, a venire una sera, quando lui, domenica sera, per esempio, io prenderò l'Argentina, in modo che si verificherà questa prassi una volta per tutte, no? Visto che il poeta è anticivile, la poesia è anticivile, non incivile. Se dal pubblico ci sono altre domande, ovviamente pertinenti, l'oggetto da segnalare. Volevo sapere se quando lo sposo parla del bambino, tutto che dice al bambino che sente tanti, per cui cerca di disegnare con la sinistra per trovare la destra, quando c'è la posta del bambino, ricerca il primitivismo e verificato per andare alla rata della sua vita. Volevo sapere come lo ricerchi anche per la rata della rata, e se c'è un atteggiamento di sinistra tra quando tu vuoi andare al suo e quando tanti si vuole trovare. Ti ringrazio, ma tanti di è stato già evasa. Ti posso però rispondere qui per attenzione anche in fare che in tecnologia ma di funzionante la trasformissima stasera. Abbiamo scelto e letto il termine bambino come onnipotenza del soggetto. Sangue inebriato, non vivo più senza. senza te, anche se la luce cala puntuale sulla vecchia torre. Abbiamo concluso una bellissima serata che dedichiamo al nostro amico Guido, che questa sera fa gli anni, o meglio questa mattina fa gli anni. Bene, ringrazio tutti gli assenti, ringrazio la simpatia e la dinamica bizantina con cui abbiamo appoggiato certe recondite e versioni labiali. Bene, allora ringraziamo il Circolo Deserto da Campi Salentina per questa meravigliosa esperienza di amicizia e ci rivediamo presto. Auguri Guido! Auguri bello! Sorride ancora, e anche dammi ti aspetto da una vita intera, intera, oh, che bella questa sera, stasera, oh. Sento, giammai sei rimasta qui dentro, non è più questione di tempo. Se non vorrei alzarmi dal letto, tu restati contro il cornetto. E poi carichiamo la macchina, senza sapere dove si va. E poi mi innamoro ma capita. Fai finta che sei un passo dalla luna. E fidati se dico, sei bella da paura. Quando pensa che io sorrido troppo, non mi importa di niente. Se il vestito mi scende, tu ti credi completamente ora. Sorridi ancora, che anche se tardi. Dormi da me, ti aspetto da una vita intera, intera, oh. Che bella questa sera, stasera, oh. Che sia vera, vera, oh, perché io sono pazza, pazza di te. Luna piena, la tua buonanotte, ma chi se ne frega di tutta sta gente che ci guarda come fossimo matti, ma io vorrei fossimo sempre così. Quando pensa che io sorrido e dopo non mi importa di niente, se il vestito mi scende tu ti perdi completamente ora. Sorridi ancora, che anche se tagli, dormi da me ti aspetto da una vita intera, intera, oh. Che bella questa sera, stasera, oh. Un sogno che sia vera, vera, oh. Perché io sono pazza, pazza di te. La nostra serata finisce qui e ora la fine del mondo. Ciao ciao! Come stai bambina? Dove vai stasera? Che paura intorno? È la fine del mondo? Sembra la rovina, sono una regina. Mamma, non so cosa salvare. Sono pezzi, già mi manchi. Occhi dolci, cuori infanti. Che spavento come il vento, questa terra sbaglia. Nel silenzio della crisi generale ti saluto con amore. Con le mani, con le mani, con le mani, ciao ciao. Con i piedi, con i piedi, con i piedi, ciao ciao. Con la testa, con il petto, con il cuore, ciao ciao. Con le gambe, con il culo, con i miei occhi, ciao. Forte, più veloce del sole. Sarà che sonno è come un dolce che non riesce a evitare. Sarà che ballano sta pizzica, sta pizzica. No signora, no. portati un'altra volta. Oh. Sono arrivati degli amici di Tommaso da Roma e voglio festeggiare. Ma sai il casino che succede qua? E chissà che combinano. No, no, non se ne sono accorti, ti dico. Scusate, una zanzara? Che ridi? Come vi siete conosciuti con Tommaso? Al buco? Come? Oddio! Era tutto per me, tutto. E gli dovevano piacere le femmine come piacciono a me, hai capito? Ma perché glielo devi dire per forza davanti a tutti? È una cosa da cui si guarisce. Quella è la vera mia, io la trattengo. Quella paf! Che poi? Tua madre mi ha giurato che non parla. Ma quella è una mina vagante, lo sai. Che state combinando? Sto preparando un attentato. No, io se bevo la sera mi viene una pancia che poi il costume chi se lo può più permettere? Non mi abituerò mai. Tu lo sapevi, eh? Se l'avessi saputo. Stanno dappertutto, spuntano come i funghi. Guarda che se ti chiamano il principe del foro non è perché sei bravo in tribunale. Ma comunque ci stanno disgrazie più grandi. Hanno le malattie, la fame, la carestia, la morte. Eh? Dentro di me. Di respiro

se sorridi, tutto sei per me e vivo solo in te. La favola di Arlecchino, Arlecchino e Colombino, san piangere, san ridere, ma soltanto con la mascherina. Non ci ha peso, non ha affonda per un tesoro, scava per terra se la pelle è dura e perché mangi una frega di merda. E dove sto? I più forti sopravvivono quando si chiedono chi è che piange, se si ridono c'è una risposta e questo pezzo io gli ho dedicato. L'inferno brucia solo per chi è un dannato. Forse uno sbaglio, forse un abbaglio, ma questo è il mio racconto. E finché i soldi c'hanno in mano il mondo, finché dicono che è un malattico, finché la gente non sa qual è il vero nemico. Fra, forse un abbaglio, forse uno sbaglio, ma questo è il mio racconto. E finché i soldi c'hanno in mano il mondo, finché dicono che è un malattico, finché la gente non sa qual è il vero nemico. Ma ci sarà qualcuno che pensa bene a quel che dico, qual è la via giusta per capire dove sta il nemico. Inseguo, ascolta, dietro sorprende, dove stanno i bastardi lo so, lo tengo a mente per sempre. Comunque vada, è impresso in gocce sulla pelle, scorre dentro il sangue ribelle, goccia per goccia, mi faccio forza con la costa, solo che mi devo un po' fermare a pensare sulle scelte che faccio, le ragioni che do, sugli scazzi che aumentano come gli anni che c'ho. Perciò guardo l'alba che sorge dal mare, nasce un nuovo giorno, ma domani sarà sempre uguale, senza una sosta, senza chi soltanto ci vuole rifare. Perdo fratelli, ma che posso fare? Pugni serrati, si riparte da mo', perché comincio un conto alla rovescia. Mo, se ci riesco, comba, rimetto a zero la lancetta, ogni mezzo è necessario per combattere ciò che m'aspetta. Aspetto il peggio e nulla di più, ed ogni canto di battaglia è per tirare la mia gente un po' su. Ma è tutta rabbia che si... Sento il tempo che mi schiaccia, quindi corro senza freno. So che si vive una volta soltanto e che domani un giorno in meno. Ho una crew che lo spinge più là, una famiglia dei ricordi e tremo. Se mi chiedo cosa resterà, che ne sarà della mia musica, dei miei anni, dei miei drammi, del mio sole, del talento che lo illumina. Io credo che ci sia qualcosa dopo, forse solo la speranza di non perdere tutto nel vuoto. Scatto foto, anche se i giorni spediscono i contorni, nel mio cuore restano sensazioni forti. Certe notti, zitto, fisso il soffitto, prego un Dio diverso da quello che mi han descritto. La vita è un brivido che vola via veloce in un soffio, in uno schiocco di dita. Questa è la mia, so che non dura in eterno, per questo ne lascio i segni sopra un quaderno. In this life, no pain, no gain. That's how I feel, like. Word up. We got one life to live, remember. Cause you never know when you're gonna go. In this life, no pain, no gain. That's how I feel, like. Know what I mean, mi ha chiesto cosa c'è ancora da scoprire, ma il destino corre troppo e non orecchie per sentire. A volte senti il peso, una domanda che ti opprime, quindi vivi cercando il tuo posto per un lieto fine. Io no, non sono pronto a rassegnarmi, era chiudo amore, odio, pace, sclero in 21 grammi. Credo nel futuro con dei sogni più grandi, sorrido a questa vita, a quello che ha voluto darmi. So che ogni mosso un giorno avrà un suo riscontro e che finito il viaggio non ci sarà un ritorno. Tengo stretto il biglietto mentre inseguo un altro sogno, intanto abbraccio il destino restando a tu per tu col mondo. Voglio una vita piena, degli amici, una passione, col fuoco di chi è che spera che esista davvero l'amore. Cerco un abbraccio vero che mi dia ancora calore, la serenità del cuore fino all'ultimo sole. Mentre passano le ore, io non so cosa c'è in serbo. Vivo sentendo il bisogno di trovare un punto fermo. Vivo per la mia famiglia, per una penna, un quaderno ed il rispetto di un fratello con cui ti divido il talento. Sento l'anima che guida ogni passo che muovo, lacrima che verso ed ogni sorriso che dono. Scrivo strofe pregne con gli occhi più gonfi, perché racchiuso in pochi grammi vive il peso dei miei sforzi. In this life, no pain, no gain. That's how I feel, I'm... It's real. We got one life to live, remember. Cause you never know when you're gonna go. In this life, no pain, no gain. That's how I feel, I'm... Know what I mean? We got one life to live. Prima che si esaurisca la clessidra, voglio incidere altri tre LP. Voglio percorrere le strade di New York al fianco di LBD. Voglio vedere il mondo da cima a fondo, per gustarmi la diversità di ogni tramonto. E poi spero di potermi innamorare come principe, portare la mia principessa sull'altare, di darle un figlio che sappia che tu con me non fotti, che abbia la mia luce che brilla dentro ai suoi occhi. Ma se muoio in questo istante è perché ho il cuore grande, che per farlo battere non basta tutto il vostro sangue. È il giorno del mio funerale, voglio una festa col DJ che selecta, con grezzo più questo pezzo in scaletta. E se mi ha amato fino in fondo, non ti prego parlami, perché ti ascolto anche se non rispondo. So so che non ho la facoltà di compiere i miracoli. Sarò solo il tuo angelo e combatterò i tuoi diavoli. Né la mia memoria impressa a fuoco, i vostri volti faranno sempre parte della mia storia e dei miei ricordi. Incido il mio presente perché viva nel futuro Paolito, attraverso ogni grammo dei suoi fanculo. Ma ancora quanti beats, quanti split, quante rime, quanti amici veri, quanti amici falsi e quante signorine, quanti giorni, quante notti, quante stelle, quante stati, quanti sogni infranti, quanti realizzati, quanti odori, quanti sapori, quante vite incroci, se apri gli occhi vivi e ti fa un giro fuori, quanti sorrisi, quanti pianti, quanta fiducia, quanti inganni, quanto valgono 21 grammi.